Il battesimo. Spiegheremo in che modo abbiamo consacrato noi stessi a Dio dopo essere stati rinnovati mediante Cristo, affinché, omettendo questo argomento, non sembri che danneggiamo in qualche modo la spiegazione. A coloro che sono convinti e credono essere vere le cose da noi insegnate e dette e che promettono di poter vivere in questo modo, si insegna a pregare e a chiedere a Dio, digiunando, la remissione dei peccati, mentre noi insieme a loro preghiamo e insieme digiuniamo. Poi sono condotti da noi dove c'è dell'acqua e sono rigenerati secondo la rigenerazione con cui noi stessi fummo rigenerati. Nel nome del Padre di tutte le cose, Dio Signore, e di Gesù Cristo nostro Salvatore e dello Spirito Santo fanno il bagno nell'acqua. Cristo infatti disse: «Se non sarete rigenerati, non entrerete nel regno dei cieli». È chiaro a tutti che una volta che si è nati è impossibile ritornare nell'utero di chi ci ha partorito. E dal profeta Isaia, come abbiamo scritto prima, è detto in che modo fuggiranno il peccato coloro che hanno peccato, ma che si sono convertiti. Così fu detto: «Lavatevi, divenite puri. Allontanate il male dalle vostre anime, imparate a fare il bene, abbiate cura dell'orfano e siate giusti con la vedova. Venite e dialoghiamo, dice il Signore. Anche se i vostri peccati sono come la porpora, li renderò bianchi come lana, anche se sono cremisi come neve, li imbiancherò. Se non mi presterete ascolto, una spada vi divorerà». La bocca del Signore pronunciò queste cose. E a riguardo apprendemmo questo discorso dagli Apostoli. Poiché, ignorando la nostra prima generazione, per necessità siamo stati generati da umido seme secondo il reciproco amplesso dei genitori e siamo nati nei cattivi costumi e nelle dannose inclinazioni, affinché non restiamo figli della necessità e dell'ignoranza, ma del proposito e della conoscenza, e per ottenere così la remissione dei peccati già commessi, nell'acqua, sopra colui che ha scelto di essere rigenerato e si è convertito dai peccati, è invocato il nome di Dio, Signore e Padre di ogni cosa, e questo solo nome pronuncia colui che conduce al lavacro, chi verrà lavato. Nessuno può dare un nome al Dio indicibile. Se poi qualcuno avesse il coraggio di affermare che un nome esiste, manifesterebbe senz'altro una follia. Questo lavacro si chiama illuminazione, poiché sono illuminati nella mente coloro che imparano queste cose. E nel nome di Gesù Cristo, crocifisso sotto Ponzio Pilato, e nel nome dello Spirito Santo, che per bocca dei profeti ha annunciato tutto ciò che riguardava Gesù, l'illuminato riceve il lavacro. I demoni imitano il battesimo cristiano. I demoni, avendo conosciuto questo lavacro annunziato dal profeta, si adoperarono affinché fossero aspersi proprio coloro che entravano nei loro templi e stavano per avvicinarsi a loro per compiere libagioni e sacrifici, e imposero che coloro che erano in partenza si lavassero completamente prima di entrare nei templi dove essi risiedevano. Inoltre i demoni, studiando i fatti accaduti a Mosè, il profeta di cui abbiamo detto, per sua imitazione vollero che i sacerdoti, a coloro che entravano nei templi e a coloro che erano addetti al culto in loro onore, comandassero di togliersi i calzari. In quel tempo, quando a Mosè fu comandato di andare in Egitto e di condurre fuori il popolo degli Israeliti che dimorava lì, mentre egli nella terra d'Arabia pascolava le pecore dello zio materno, da un rovo, sotto l'immagine di fuoco, a lui si rivolse il nostro Cristo e disse: «Sciogli i tuoi calzari e dopo esserti avvicinato, ascolta». Egli, scioltosi i calzari e avvicinatosi, ascoltò che doveva recarsi in Egitto e condurre fuori il popolo degli Israeliti che si trovava là, e grande potenza ricevette da Cristo che a lui aveva parlato sotto forma di fuoco, e recandosi laggiù, condusse fuori il popolo dopo aver compiuto grandezze e prodigi. Se volete apprendere, imparerete ciò in modo dettagliato dai suoi scritti. Dio ha parlato a Mosè. Anche adesso tutti i giudei insegnano che il Dio innominabile ha parlato a Mosè. Per questo motivo lo spirito profetico, per mezzo di Isaia, il profeta già menzionato, li rimprovera come abbiamo scritto, dicendo: «Il bue conosce colui che lo possiede, e l'asino la mangiatoia del suo padrone. Israele però non mi conobbe, e il popolo non mi accolse». E Gesù Cristo, che i giudei non riconobbero né come padre né come figlio, rimproverandoli allo stesso modo, così disse: «Nessuno conosce il padre se non il figlio, né il figlio se non il padre, e coloro ai quali il figlio lo ha rivelato». Il Verbo di Dio è suo figlio, come abbiamo detto, ed è chiamato messaggero e apostolo. Egli, infatti, annuncia ciò che bisogna conoscere ed è inviato per rivelare quello che è annunciato, come disse lo stesso nostro Signore: «Chi ascolta me, ascolta colui che mi ha mandato». Dagli scritti di Mosè questo apparirà chiaro. Così vi è detto: «L'angelo di Dio parlò a Mosè dal rovo della fiamma di fuoco e disse: Io sono colui che sono, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, il Dio dei tuoi padri. Vai in Egitto e conduci fuori il mio popolo». Le altre cose, volendo, potete apprendere da quegli scritti. Qui non è infatti possibile scrivere tutto. Ma tali discorsi esistono per dimostrare che Gesù Cristo è figlio di Dio e inviato, e che prima era il Verbo, apparso una volta sotto forma di fuoco, una volta come immagine incorporea. Ora, per volontà di Dio, fattosi uomo a beneficio del genere umano, sopportò anche di patire quello che i demoni riuscirono a mettere in atto da parte dei giudei insensati. Questi, avendo trovato nei libri di Mosè con parole esplicite «L'inviato di Dio parlò a Mosè dal rovo come fiamma di fuoco e disse: Io sono colui che sono, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe». Dicono che il Padre di tutte le cose e il Creatore è colui che ha detto ciò. Per questo lo spirito profetico disse rimproverandoli: «Israele non mi conobbe e il mio popolo non mi accolse». E ancora Gesù, come abbiamo dimostrato, trovandosi fra di loro, disse: «Nessuno conobbe il Padre se non il Figlio, né il Figlio se non il Padre e coloro ai quali il Figlio l'ha rivelato». I giudei, dunque, ritenendo sempre che a Mosè avesse parlato il Padre di tutte le cose, mentre aveva parlato colui che era suo Figlio, che è chiamato anche messaggero e inviato, giustamente vengono rimproverati sia dallo spirito profetico sia dallo stesso Cristo, poiché non riconobbero né il Padre né il Figlio. Coloro che dicono che il Figlio è il Padre vengono rimproverati poiché non riconoscono il Padre, né sanno che il Padre di tutte le cose ha un Figlio. Questo, essendo Verbo primogenito di Dio, è anche Dio. E per primo apparve a Mosè e agli altri popoli sotto forma di fuoco ed immagine incorporea. Ora, nel tempo del vostro impero, come abbiamo detto prima, divenuto uomo per mezzo di una vergine, secondo la volontà del Padre, per la salvezza di coloro che credono in Lui, sopportò di essere considerato spregevole e di patire, affinché, morendo e risorgendo, vincesse la morte. Ciò che è detto dal rovo a Mosè: «Io sono colui che sono, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe e il Dio dei tuoi padri», significa che quelli, pur essendo morti, restano e sono uomini dello stesso Cristo. Essi, infatti, primi fra tutti gli uomini, si preoccuparono di ricercare Dio. Abramo, padre di Isacco, Isacco, padre di Giacobbe, come scrisse anche Mosè. Core e Atena. Da ciò che è stato detto prima, potete comprendere che i demoni hanno operato per innalzare la statua di colei che è chiamata Core vicino alle sorgenti d'acqua, dicendo che è figlia di Zeus, imitando ciò che è stato detto da Mosè. Mosè, come abbiamo scritto prima, disse così: «Al principio Dio creò il cielo e la terra. La terra era invisibile e senza ordine, e il soffio di Dio si librava sopra le acque». A imitazione dunque dello spirito di Dio che è detto librarsi sulle acque, parlarono di Core, figlia di Zeus, e macchinando con uguale malvagità dissero che Atena è figlia di Zeus, non per unione, ma poiché seppero che Dio per mezzo del Verbo aveva creato il mondo con il pensiero, dissero che Atena era la prima dea. Questo lo riteniamo assolutamente ridicolo, presentare come immagine del pensiero una forma femminile. Allo stesso modo, le azioni accusano quegli altri che sono ritenuti figli di Zeus. Partecipazione all'Eucaristia. Noi, dopo aver lavato in questo modo colui che ha creduto e ha acconsentito, lo conduciamo tra coloro che sono chiamati fratelli, lì dove essi sono riuniti, per formulare preghiere comuni e fervide per noi stessi, per l'illuminato e per tutti gli altri di ogni luogo, affinché, avendo appreso la verità, possiamo essere considerati buoni cittadini per le opere e custodi dei precetti, affinché possiamo salvarci nella salvezza eterna. Terminate le preghiere, ci salutiamo reciprocamente con un bacio. Poi al presidente dei fratelli vengono portati un pane e una coppa di acqua e del vino temperato. Egli, dopo averli ricevuti, innalza lode e gloria al Padre di tutte le cose nel nome del Figlio e dello Spirito Santo e compie un lungo rendimento di grazie per essere stati degni di questi doni da parte sua. Dopo che ha terminato le preghiere e l'Eucaristia, tutto il popolo presente esclama e dice «Amen». «Amen» in lingua ebraica significa «sia fatto». Dopo che il presidente ha reso grazie e tutto il popolo ha confermato acclamando, quelli che da noi sono chiamati diaconi fanno partecipare ciascuno dei presenti al pane su cui si è pronunciato il ringraziamento, al vino e all'acqua, e portano questo cibo a coloro che non sono presenti. Questo cibo è chiamato da noi Eucaristia e a nessun altro è consentito parteciparne eccetto a colui che crede essere vere le cose insegnate da noi e a colui che si sarà bagnato nel lavacro per la remissione dei peccati e per la rigenerazione e che vive nel modo che Cristo ha insegnato. Non infatti come pane comune né come comune bevanda prendiamo queste cose, ma nel modo in cui Gesù Cristo, nostro Salvatore, incarnatosi per mezzo del Verbo di Dio, assunse corpo e sangue per la nostra salvezza. Allo stesso modo quel cibo, su cui si è reso grazie con la parola di ringraziamento da parte dello stesso Gesù e del quale cibo anche il sangue e le carni sono nutriti per nostra trasformazione, ci fu insegnato essere carne e sangue del Gesù incarnato. Gli apostoli, infatti, nelle memorie da loro lasciate che si chiamano Vangeli, tramandano che a loro così è stato comandato e che Gesù, prendendo il pane, rendendo grazie, disse «Questo fate in mia memoria, questo è il mio corpo». E allo stesso modo, prendendo il calice e rendendo grazie, disse «Questo è il mio sangue» e a loro solo ne fece prendere parte. Così i demoni malvagi, imitatori, insegnarono che ciò si verificava anche nei misteri di Mitra, e infatti pane e coppa d'acqua sono posti nei riti dell'iniziazione assieme ad alcune perorazioni. O ne siete a conoscenza o potete impararlo. Celebrazione eucaristica. Dopo che avvenne per la prima volta, sempre tra di noi commemoriamo questi fatti. Coloro che hanno vengono in aiuto di tutti i bisognosi e sempre siamo uniti gli uni con gli altri. Per tutti i doni che riceviamo, ringraziamo il Creatore dell'Universo per mezzo di suo Figlio, Gesù Cristo, e per mezzo dello Spirito Santo. E nel giorno detto del sole, riunendoci tutti in un solo luogo, dalla città e dalla campagna, costituiamo un'assemblea e si leggono le memorie degli apostoli e gli scritti dei profeti, fino a quando vi è tempo. Poi, quando colui che legge ha terminato, il presidente con un discorso ammonisce ed esorta all'imitazione di queste buone cose. Insieme ci alziamo tutti ed eleviamo preghiere. Come abbiamo già detto, terminata la nostra preghiera, viene portato pane, vino e acqua e il presidente, allo stesso modo e per quanto gli è possibile, innalza preghiere e ringraziamenti e il popolo acclama pronunciando l'Amen. Dei cibi su cui si è pronunciato il ringraziamento segue la divisione e la distribuzione a ciascuno e per mezzo dei diaconi si portano a coloro che non sono presenti. Coloro che hanno in abbondanza e che vogliono, ciascuno secondo la sua decisione, dà quello che vuole e quanto viene raccolto è consegnato al presidente. Egli stesso va ad aiutare gli orfani, le vedove e coloro che sono bisognosi a causa della malattia o per qualche altro motivo, coloro che sono in carcere e gli stranieri che sono pellegrini, e insomma protettore di tutti coloro che sono nel bisogno. Tutti quanti insieme ci riuniamo nel giorno del sole, poiché è il primo giorno nel quale Dio creò il mondo, avendo trasformato la tenebra e la materia. E Gesù Cristo, nostro Salvatore, nello stesso giorno risuscitò dai morti. Infatti lo crocifissero prima del giorno di Saturno, e il giorno dopo quello di Saturno, cioè il giorno del sole, apparso ai suoi apostoli e ai suoi discepoli, insegnò queste cose che ora porgiamo a voi affinché le esaminiate. Appello finale. Se vi sembra che queste parole abbiano qualcosa di ragione e di verità, tenetele in considerazione. Se vi sembrano delle chiacchiere, disprezzatele come cosa da nulla, ma non stabilite la morte come per dei nemici contro coloro che in nulla sono colpevoli. Vi ammoniamo infatti che non sfuggirete al futuro giudizio di Dio se rimarrete nell'ingiustizia. E noi grideremo: ciò che piace a Dio, questo avvenga. In base alla lettera del grandissimo e celeberrimo imperatore Adriano, vostro padre, anche se possiamo chiedere che su vostro ordine siano istruiti dei processi, come abbiamo già richiesto, non lo chiederemo più in base a ciò che è stato deciso da Adriano. Abbiamo scritto invece questa allocuzione e dimostrazione perché siamo consapevoli di chiedere cose giuste. Abbiamo allegato la copia della lettera di Adriano affinché vediate che noi siamo sinceri anche a tale proposito. La copia è questa.